651. Sformato con gli amaretti coperto di zabaione. Amaretti grammi 100, zucchero grammi 100, farina di patate grammi 80, latte mezzo litro, uova numero 3. Ponete lo zucchero e la farina di patate in una cazzaruola e versateci latte ghiaccio a poco per volta, mescolando. Pestate gli amaretti nel mortaio per ridurli in polvere e se per la loro qualità ciò non avviene, bagnateli con un gocciolo di latte, passateli dall'ostaccio e indi uniteli al composto che metterete al fuoco per assodarlo. Tolto dal fuoco, quando sarà tiepido, versateci le uova, prima i rossi, poi le chiare montate. Ungete col burro ghiaccio uno stampo col buco in mezzo e versateci il composto per cuocerlo nel forno da campagna. Cotto che sia, riempitelo e copritelo con lo zabaione del numero 684 e mandatelo in tavola.